Aldo Busi ha letto Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll per Edizioni Feltrinelli, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante. Il terzo anello, @rai.it. Alice alla sbarra. Il processo non può continuare, proclamò solennemente il re, finché tutti i giurati non sono tornati a posto. E dico tutti, sottolineò guardando severamente Alice. Alice guardò il banco degli imputati e vide che, nella concitazione del momento, aveva messo il ramarro a testa in giù e la povera bestiola muoveva mestamente la coda, dato che non poteva fare altro. Allora Alice lo afferrò e lo raddrizzò. Non che voglia dir molto, pensò. Credo proprio che in un processo nessuno fa caso se un ramarro è messo per così o per cosà. Non appena la giuria si fu ripresa dallo shock da defenestrazione e gessetti e lavagne furono ritrovati e restituiti, ognuno cominciò molto diligentemente a fare una relazione sul capitombolo, tutti tranne il ramarro, che sembrava troppo occupato a guardare a bocca aperta il soffitto dell'aula. «Che cosa sai di questa faccenda?» domandò il re ad Alice. «Niente», rispose Alice. «Niente, niente?» insistette il re. «Niente, niente!» disse Alice. «Ciò è invero rilevante», disse il re, rivolgendosi alla giuria. Avevano appena cominciato a trascrivere questa frase sulle lavagne quando il coniglio bianco intervenne. «Irrilevante, vorrà certo dire sua maestà», disse, ostentando grande rispetto, macigliato e facendo le boccacce al re. «Irrilevante, volevo dire, certo», disse il re prontamente, e fra sé e sé continuò a bassa voce. «Rilevante, irrilevante, irrilevante, irrilevante», come per provare quale suonava meglio. Qualche giurato scrisse «rilevante» e qualche altro «irrilevante», constatò Alice, che era abbastanza vicina da poter sbirciare nelle lavagne. «Ma tanto, cosa cambia?» pensò. A questo punto il re, che per un po' era stato intento a scrivere nel suo taccuino, gridò «Silenzio!» e leggendo ad alta voce sentenziò «Articolo 42. Tutte le persone alte più di un chilometro devono abbandonare il tribunale». Tutti gli sguardi si appuntarono su Alice. «Non sono mica alta un chilometro io», disse Alice. «E invece sì», disse il re. «Un paio di chilometri a occhio e croce», aggiunse la regina. «Beh, fatti vostri, io da qui non mi muovo», disse Alice. «E inoltre, questo articolo non esiste, te lo sei inventato lì per lì». «Ma sei il più antico di tutto il codice», disse il re. «E allora dovrebbe essere il numero 1», disse Alice. Il re impallidì e chiuse di scatto il taccuino. «La giuria si ritiri per discutere il verdetto», disse con voce fioca e tremante. «Prego, maestà, ci sono altre prove da esaminare», disse il coniglio bianco, balzando immediatamente in piedi. «Questo foglio che è appena stato trovato». «Che c'è scritto?» disse la regina. «Non l'ho ancora aperto», disse il coniglio bianco. «Ma si direbbe una lettera scritta dal prigioniero a qualcuno». «A chi è indirizzata?» disse uno dei giurati. «Non c'è indirizzo», disse il coniglio bianco. «Sulla busta non c'è scritto niente». E, spiegato il foglio mentre parlava, aggiunse: «No, non è una lettera, è una poesia». «È di pugno del prigioniero», chiese un altro giurato. «No, appunto», disse il coniglio bianco. «È questa la cosa più strana». La giuria apparve perplessa. «Avrà imitato la calligrafia di qualcun altro», disse il re. La giuria si rasserenò. «A vostra maestà piacendo», disse il fante, «non l'ho scritto io e nessuno può provare il contrario. Non c'è nessuna firma». «Se non l'hai firmato», disse il re, ciò non fa che peggiorare la situazione. Dovevi avere la testa in qualche malefatta, altrimenti avresti apposto la tua firma come ogni uomo da bene. Al che scrosciò un gran battimani. Era la prima cosa realmente sensata che il re avesse detto in tutto il giorno. Ciò prova la sua colpevolezza, naturalmente, disse la regina. E allora boia, dacci! Non prova proprio un bel niente, disse Alice. Ma se non sappiamo neanche di che cosa parla. Leggila, disse il re. Il coniglio bianco inforcò gli occhiali. Da dove devo iniziare, maestà? Chiese. Inizia dall'inizio, disse il re con solennità. E va avanti finché non arrivi alla fine, poi fermati. I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. Sul tribunale calò un silenzio di tomba mentre il coniglio bianco leggeva quanto segue. Io ho saputo da voscenza che tu sei stato da lei e hai tenuto conferenza con lui sui difetti miei. Quella ha detto, bontà vostra, che son meglio di mia nuora e per far girar la giostra mi travesto anche da suora. Lui ha scritto sciagurato a loro che non son partito e che ciò sia oro colato lo sappiamo, a me l'ha detto. Ma se lei gioca pesante e tien duro fino in fondo, sebben lui non valga niente, che sarà di te al mondo? Io ne ho date un paio a lei, lei ne ha date quattro a voi. Tu, carino come sei, sei e più ne hai rese a noi. E Leno, son ritornate poi da quello lì a te stesso. E ciò finché siano state prima tutte in mio possesso. Se a noi altri o a lor signori vi dovesse capitare di finire dentro o fuori invischiati in quest'affare, ehi, confida se colui che darà il tuo aiuto agli uni e che grazie a te il decuius non cadrà come taluni. Stando a quanto gli risulta, prima che ella avesse accessi della bile più in consulta, tu sei stata insieme ad esse un ostacolo, qualcosa che si è messo sul tragitto fra quei tizi, questa cosa, lui, voi altri, il sottoscritto. Perciò, non dire a chi sai che lei preferiva gli altri, no, codesto tu giammai devi farlo, siamo scaltri, è un segreto e tale resti a prescindere dal resto fra te, che attenzion mi presti e chi scrive questo testo. Questa è certamente la testimonianza più rilevante esibita finora, disse il re fregandosi le mani. E adesso lasciamo che i giurati, se per caso uno di loro può spiegarmela, disse Alice. Era talmente cresciuta negli ultimi minuti che non aveva affatto paura a interromperlo. Gli do una bambolina. Io non credo che ci sia un atomo di senso in questi versi. I giurati riportarono tutti sulle loro lavagne. Ella non crede che ci sia un atomo di senso in questi versi. Ma nessuno cercò di spiegare in qualche modo la poesia. Se non c'è nessun senso, disse il re, tanto meglio, ci risparmiamo un mare di fatica, dato che possiamo fare a meno di cercarne uno. Continuò scorrendo di nuovo il foglio aperto sulle ginocchia. Però, secondo me, a ben guardare, un qualche senso c'è. Mi travesto anche da suora. Porti un cilicio sotto la corazza? Confessa! Intimò rivolto al fante. Il fante scosse tristemente la testa. «Ho la faccia di uno che fa ste cose?» disse, e c'era da credergli, dato che era fatto tutto di cartone a uno strato. «Vabbè, passiamo avanti!» disse il re, e continuò a borbottare fra sé e sé. «E che ciò sia oro colato, lo sappiamo a menadito?» «È il verdetto della giuria, ovviamente.» Ma se lei gioca pesante e tien duro fino in fondo? Oh, deve trattarsi della regina. Che sarà di te al mondo? Ah, lo so io cosa. Io ne ho date un paio a lei, lei ne ha date quattro a voi. Ecco cosa ne ha fatto delle pizzette. Ma dice anche, elle no, son ritornate poi da quello lì a te stesso, disse Alice. «Eccole lì!» disse il re in tono trionfante, puntando l'indice sulle pizzette sulla tavola. «È una prova schiacciante! E ancora, prima che ella avesse accessi della bile più in consulta... Ma tu non hai mai avuto accessi di bile, mia diletta, n'è vero?» disse alla regina. «Mai!» disse la regina, più furiosa che mai, tirando dietro un calamaio a ramarro e centrandolo in pieno. Il povero biglietto aveva smesso di scrivere con un dito, scoprendo che sulla lavagna non restava traccia alcuna, ma ecco che ora riprendeva in tutta fretta, usando l'inchiostro che gli stava colando giù dalla faccia, finché ce ne fu. «Questa cosa non ti è accessibile», disse il re, guardandosi attorno con un sorrisetto sulle labbra. Ci fu un ulteriore silenzio di tomba. Any women at that. child of mine. What to have «È un gioco di parole!» esclamò il re in tono risentito. E tutti scoppiarono a ridere. «Che la giuria emette il suo verdetto!» disse il re, e per la ventesima volta o giù di lì. «No! No!» disse la regina. «Prima l'esecuzione, poi il verdetto!» «Che asinate!» disse Alice ad alta voce. «Questa poi, giustiziare prima del verdetto! Chiudi il becco!» disse la regina facendosi scarlatta. «Chiudilo tu!» disse Alice. «Boia! Un bel zacca quella lì!» strillò la regina con quanto fiato aveva in corpo. Nessuno si mosse. «Ma chi credete di far paura, voi?» disse Alice, cresciuta nel frattempo fino alla sua statura di sempre. «Non siete altro che un mazzo di carte!» A questo punto tutto il mazzo di carte si sollevò in aria e le sciamò addosso in picchiata. Alice levò un gridolino, un po' per la paura, un po' per la collera, e cercò di scacciarle agitando le braccia, quand'ecco si ritrovò sdraiata sulla riva del fiume, con la testa sul grembo di sua sorella, che con delicatezza le stava togliendo dal viso le foglie morte cadute dagli alberi. «Svegliati, Alice, tesoro!» disse la sorella. «Per dinci, questo sì che si chiama dormire. Che sogno strano ho fatto!» disse Alice e cominciò a raccontarle tutto quanto riusciva a ricordare delle meravigliose avventure che voi avete appena finito di leggere. E non appena ebbe finito, la sorella le diede un bacino e disse: «Strano davvero, cara, questo sogno, ma adesso corri a casa a bere il tè. Si sta facendo tardi.» Alice si alzò e corse via, rincorsa dal suo sogno meraviglioso. Ma sua sorella restò seduta, con la testa appoggiata alla mano, a guardare il sole al tramonto e a pensare alla piccola Alice e alle sue meravigliose avventure, finché anche lei non cominciò a sognare. Dapprima sognò Alice che di nuovo le cingeva le ginocchia e, sollevando il volto, la guardava negli occhi con gli occhi accesi di curiosità. Udì distintamente le cadenze della sua voce e vide quel buffo scarto della testolina ricacciare indietro la ciocca ribelle che le cascava eternamente sugli occhi. E mentre ascoltava, o sembrava ascoltare, intorno a lei il luogo si animò delle strane creature sognate dalla sorellina. L'erba alta frusciò i suoi piedi al rapido passaggio del coniglio bianco, il topo sguazzava nel lago accanto a lei, schizzando dappertutto, udì il tintinnio delle tazze da tè, mentre la lepre marzolina e i suoi amici erano alle prese con la loro merenda senza fine, e anche la voce isterica della regina che ordinava l'ennesimo belzac fra capo e collo dei suoi infelici ospiti. E di nuovo l'infante Porcellino starnutì sulle ginocchia della duchessa, mentre piatti e piattini si schiantavano in mille pezzi tutti intorno, e ancora una volta il grido del grifone, lo scricchiolio del gessetto del ramarro e gli applausi dei porcellini d'India subito abortiti riempirono l'aria, confondendosi con i singhiozzi lontani della disgraziata tartaruga d'Egitto. E se ne stava immobile a occhi chiusi, cercando di convincersi che anche lei era nel paese delle meraviglie, sebbene sapesse che bastava riaprirli e tutto sarebbe ripiombato nella grigia realtà. L'erba avrebbe frusciato per il vento e il lago si sarebbe increspato allo stormire delle canne. Il tintinio delle tazze si sarebbe trasformato nei campanelli delle pecore e le grida concitate della regina in quelle del pastorello e gli starnuti dell'infante, il grido del grifone e tutti gli altri strani rumori si sarebbero fusi, lo sapeva bene, nell'indistinto gridio della fattoria in piena attività, mentre il muggito lontano delle mandrie avrebbe sostituito i singhiozzi disperati della tartaruga d'Egitto. Infine si immaginò di avere davanti la sua stessa sorellina, già diventata donna. Aveva conservato negli anni più maturi il cuore semplice e amoroso dell'infanzia. La vide chiamare attorno a sé altri bambini e i loro occhi accendersi di curiosità per tanti racconti straordinari, forse per lo stesso sogno del paese delle meraviglie di tanto tempo fa, e ancora suoi sarebbero stati i loro piccoli dispiaceri e suo il piacere delle loro piccole gioie. Alice si sarebbe ricordata di Alice bambina e dei bei giorni d'estate. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.